In questi tempi complicati abbiamo pensato di usare la nostra voce per parlare di cambiamenti che attraversano le città. La metropoli della rendita, del greenwashing, del tecnocapitalismo sembra un Moloch in grado di regolare le nostre vite fisiche e penetrare il nostro immaginario. A questo punto ci tocca ragionare partendo da una domanda, se possibile radicale. Che cosa significa affermare il diritto alla città oggi? La nostra indagine parte da Milano, il luogo in cui viviamo, e si espande al resto dell'universo, non perché Milano sia il centro dell'universo, ma perché ogni modello è replicabile in scala e ogni situazione particolare ne contiene una più grande, che ci coinvolge tutti. Questo podcast si chiama Fuori Fase. Le musiche sono di Le Gros Ballon e lo produce il collettivo politico Off Topic Lab. Questa puntata parla degli scali ferroviari milanesi e lo fa con Lucia Tozzi, studiosa di politica urbana e giornalista, e Gabriele Mariani, architetto ingegnere, ex consigliere ed assessore all'urbanistica Municipio 3. Parliamo di scali ferroviari milanesi partendo da Berlino. A fine 2008 l'aeroporto di Berlino Tempelhof fu chiuso al volo. Dopo 2 anni di inutilizzo, il Senato, in accordo con associazioni di cittadini, decise di destinare temporaneamente i 220 ettari di spazio inutilizzato nel cuore della città a parco pubblico. Nel frattempo fu presentato un progetto di sviluppo urbano per l'area, che prevedeva di costruire sul vecchio aeroporto nuovi complessi residenziali. Grazie all'immediata popolarità del nuovo parco, i cittadini berlinesi si opposero a questo piano immobiliare e nel 2014 promossero un referendum per mantenere l'ex aeroporto interamente parco. Il referendum fu vinto, ma non avendo carattere vincolante non venne ascoltato. Oggi a Berlino la battaglia fra cittadini, senato e investitori continua. Intanto però un'enorme area vuota nel cuore della città è stata restituita alla collettività, senza l'intervento di privati e senza sviluppo immobiliare. Qui a Milano la pensiamo in maniera un po' diversa. Questi ultimi anni, cioè da prima che fosse realizzato l'Expo, abbiamo introiettato la versione per cui bisognava costruire nuovi quartieri, nuove città, nuove torri, nuovi parchi, eccetera, eccetera, per attrarre persone finalmente, perché effettivamente questo è stato un passaggio epocale. Milano ha sempre avuto il complesso di essere meno attrattiva di tutte le altre città italiane che avevano centri storici non distrutti dalla guerra, monumenti. Sempre stato un po' al di fuori dai grandi circuiti turistici classici. Quindi, come si suol dire in termine tecnico dei grandi eventi, questo riposizionamento sulla mappa è stato proprio un momento di furore estatico. I milanesi non ci potevano credere di essere diventati un'attrazione. E questo sogno passava appunto dagli sviluppi real estate in generale e in particolare da questi sogni che erano diventati gli scali. Farini, Greco Breda, Lambrate, Porta Romana, Rogoredo, Porta Genova e San Cristoforo. Sono 7 gli scali ferroviari di Milano dismessi o da dismettere, oggetto di uno dei piani di intervento di rigenerazione urbana più grandi d'Europa. Si tratta di oltre 1 milione di metri quadrati di aree libere, un progetto in grado di cambiare il volto di interi quartieri della città e di attirare enormi interessi da parte di investitori privati. Dopo anni di rimandi e di attesa, il destino di queste aree è stato avviato definitivamente con un accordo di programma nel 2017 tra Comune, Regione e FS Sistema Urbani. Un accordo che a detta di molti ha dimostrato però un notevole squilibrio di potere verso la controparte privata. È stato stimato che l'operazione scali ferroviari genererà ricavi che si attesteranno intorno ai 2 miliardi e mezzo, 2 miliardi e 8 di euro, a fronte di costi di 1 miliardo e mezzo, 1 miliardo e 8. Quindi la generazione di utili per circa 1 miliardo di euro. Ora c'è da chiederci se questi utili, che chiamiamo plusvalenze, sono correttamente captati dal soggetto pubblico. In più parti è stato rilevato che l'accordo di programma sugli scali è piuttosto squilibrato a favore del privato perché non è in grado di captare correttamente questo plusvalore tramite una adeguata tassazione. Tassazione che nell'accordo di programma sugli scali è stimata in 131 milioni di euro, che è ben al di sotto della tassazione che viene applicata nei paesi europei analoghi all'Italia in operazioni nelle quali è il soggetto pubblico, grazie alla cui scelta alcune aree che prima non erano edificabili, poi vengono rese edificabili. Si stima che questo valore in tassazione in Germania sia 6 volte tanto, in Francia sia 4 volte tanto. Ora, tutto questo era un processo che si stava avviando con grande solerzia, ma già con un po' di affanno fino a gennaio. Tuttavia, il Covid ha prodotto uno squarcio enorme nelle certezze del futuro, perché comunque tutto era fondato su questa tendenza alla ripopolazione. Milano, fino a 10 anni fa, era una città che si continuava a spopolare verso la Brianza, verso l'esterno, le persone uscivano da Milano, non rientravano, e invece attraverso questo successo pompato dell'Expo, che non aveva coinciso con un reale successo, ma comunque che ha avuto mediaticamente un impatto fortissimo, ha creato sia un grosso afflusso di giovani, popolazione anche giovani, studenti, moltissimi studenti, sia lavoratori, insomma, magari intermittenti che vivevano a cavallo tra più città, e sia turisti, una specie assolutamente sconosciuta. Questo ingrandimento della città fomentava, era proprio concime per gli investimenti in real estate, insieme naturalmente ai fondi statali. Il fatto che all'improvviso Milano sia stato l'epicentro non solo dell'epidemia, ma anche delle falle del sistema pubblico sanitario, effettivamente ha creato un'immediata perdita di abitanti, un'immediata perdita di studenti. Studenti che si sono iscritti al sud, studenti che hanno deciso di iscriversi qui, ma seguire i corsi da casa, eccetera. Un immediato calo di lavoratori intermittenti che sono rimasti nelle loro città. Sicuramente un vuoto enorme in un mercato immobiliare enorme, che sono quelle 20.000, tra 17 e 20.000 appartamenti che erano destinati agli affitti brevi, a Airbnb, eccetera. È ancora presto per capire se il trend demografico invertirà la rotta e quale direzione prenderà il mercato immobiliare della città nel medio-lungo periodo. Sicuramente è difficile immaginare che servano nuove torri, grattacieli e appartamenti di lusso in una Milano impoverita dalla crisi e in cui lo strumento dello smart working è sempre più utilizzato dalle aziende, anche al di fuori della situazione di emergenza. Di sicuro la crisi del Covid ha già prodotto un risultato tangibile, la brusca frenata del progetto di Scalo Farini, il più grande, centrale e importante fra le 7 aree di intervento. Sembrava che l'inizio tutto dovesse cominciare da Scalo Farini, che è il più grande, peraltro, mi sembra, ma poi l'asse si è spostato recentemente allo Scalo di Porta Romana, soprattutto da quando è stato annunciato che lì si sarebbe acquartierato il villaggio olimpico per le Olimpiadi 2026 Milano Cortina. Ci sono varie cordate che stanno cercando di aggiudicarsi lo sviluppo, di cui quella che sembra apparentemente più favorita è quella da Catella, che è un po' il nuovo Ligresti, diciamo, del contemporaneo, ha più progetti di tutti gli altri in tutta la città, e da Prada, che appunto è un po' il RAS del Milano Sud, quindi che hanno enormi possibilità, hanno anche soldi, effettivamente investitori che già lì li supportano. Thank you. il 10 novembre 2020 si è chiusa la gara di vendita dell'ex scalo di Porta Romana. Come previsto da Lucia Tozzi, che ha registrato il suo intervento molto prima di questa data, ha vinto la cordata composta da Coima, Covivio e Prada. La gara era partita con 6 o 7 soggetti interessati all'acquisto, ma secondo alcuni rumors, nelle ultime settimane ci sono stati diversi ritiri, per via di regole particolarmente rigide aggiunte in corsa. Secondo queste voci, quindi, la gara potrebbe essere stata pilotata dall'alto, lasciando di fatto il via libera all'offerta di Coima e Prada. Ovviamente è una tesi da provare, ma in grado di farci comprendere come dietro alla retorica della rigenerazione urbana ci siano enormi interessi privati in gioco, che tutelano gli interessi dei soliti nomi e che alla collettività lasciano solo le briciole. La vicenda degli scali ferroviari di Milano ha prodotto in questi anni, anzi da molti anni, una grande effervescenza di progettualità e in qualche modo tutti, ma proprio tutti, si sono cimentati con un progetto di trasformazione che aveva comunque quasi sempre il carattere di profonda trasformazione immobiliare e quindi connessa con la rendita. Ma dentro questa vicenda della rendita immobiliare si nascondono due grandi categorie che forse vale la pena svelare e provare a raccontare brevemente all'inizio. La prima si chiama housing sociale. È uno strumento di regolazione delle volumetrie, nel senso che nella dinamica edificatoria milanese è abbastanza consolidato il fatto che se fai housing sociale, se costruisci delle case per il social housing, ti lascio costruire un po' di più, è un premio. La seconda cosa è che l'housing sociale è uno strumento comunque per la classe media, nel senso che occorre essere un soggetto ben tutelato per poter accedere, perché costa abbastanza, non costa la casa popolare, richiede un contratto di lavoro stabile, vuole un anticipo e altre caratteristiche di questo tipo. Cioè non risponde per niente alle esigenze di bisogno di una casa in condizioni di disagio, di difficoltà o di povertà. Tutto questo lo leggiamo dentro quella che è la grande categoria del greenwashing, che è il nome che diamo quando ci esprimiamo in forma educata alla politica di marketing territoriale dei grandi operatori immobiliari e dei soggetti pubblici che dovrebbero, ma non fanno, regolare il mercato. Le grandi politiche sulle trasformazioni e sulle rigenerazioni non hanno nulla di green. Sono tutte frutto di meccanismi con le quali i nuovi edifici ottengono patenti e certificazioni nell'ambito ecologico e con questi bolli hanno il via libera per realizzare e per promuovere un sistematico innalzamento dei prezzi, perché questo è l'effetto finale. Il bosco verticale è il classico esempio di oggetto estremamente green. Pensiamo che sul sito di Bosco Verticale fino a qualche anno fa sull'home page compariva la parola riforestazione. I progetti degli scali vanno in questo senso. Scalo Farini, fra tutti, aveva un progetto estremamente green, estremamente frutto di una grande operazione di maquillage anche nei rendering iniziali. È un'ennesima politica che sostiene la rendita, è incapace di portare un beneficio redistribuito e quindi messo a disposizione dei soggetti con scarso potere d'acquisto. E in questo è uno strumento di segmentazione di alcune aree della città verso un alto profilo sociale ed economico. Social housing e greenwashing sono due formidabili armi retoriche che il comune e gli investitori privati mettono in campo quando si tratta di convincere i cittadini delle bontà dei loro progetti. Ma per smascherare questa roboante propaganda, basterebbe ricordare come sono andati a finire certi grandi interventi immobiliari del recente passato. Una cosa importantissima, secondo me, da fare, da ricordare sempre, sono tutti i fallimenti che ci sono stati in questa città. Per esempio, Santa Giulia, nei primi anni 2000, era il grandioso futuro di Milano, il grande piano verde, fallì in una maniera incredibile, con gente in galera, appunto, bonifiche andate a male, delinquenza, corruzione, eccetera, eccetera, è stato rimosso come se la gente non si ricordasse più. Dopo Santa Giulia, l'altro enorme fallimento fu Sesto San Giovanni, anche di quello nessuno si ricorda niente. Quello è un progetto che non si riesce mai a concludere. Ogni tanto arrivano notizie, sono arrivati gli emiri sauditi, sono falliti infinite cose. Tuttavia le persone fanno proprio fatica a ricordarsi che quello è stato un grosso fallimento, e da quegli errori e da ognuno di quei fallimenti scaturiscono sofferenze annose per migliaia di persone. A Santa Giulia ci sono persone che avevano comprato la casa e che ci sono dovuti andare, che si sono trovati in un deserto urbano allucinante. Non gliene frega niente a nessuno, ma anche dai successi. Qui dall'isola chiunque di noi può testimoniare che c'è stata una sostituzione spaventosa della popolazione. Tra le varie alternative che furono proposte al tempo dell'accordo di programma sugli scali ferroviari c'era la cosiddetta opzione zero, la possibilità che queste aree tornassero alla città così come sono, senza sviluppo immobiliare, senza costruirci niente sopra. Questa opzione zero immagina l'area degli scali come un enorme parco di cintura della città, un polmone verde il cui unico costo a carico del pubblico rimane l'eventuale operazione di bonifica. Questa crisi è un'occasione. In qualche maniera, cioè un'occasione per ridiscutere la ratio di tutta di questa forma di politica. Allora, che cosa è successo in moltissime città, non solo in posti astrusi? È successo a New York, è successo a Toronto, è successo a Berlino, è successo a Barcellona. Le popolazioni, gli attivisti hanno cominciato a reclamare lo spazio pubblico e i propri quartieri, eccetera, invocando il non intervento, una trasformazione non dipendente dal classico sistema di sviluppo. Gli scali ferroviari erano e sono tuttora aree di tipo ferroviario e quindi l'uso ferroviario, fatto con binari, con carri che ci passavano sopra e con tutte le merci che sono transitate, i lavori che sono stati eseguiti in quelle aree, hanno portato con sé l'esigenza, o meglio la probabile esigenza, di una bonifica delle aree. Diciamo che è un'operazione, come dire, che andrebbe spiegata da sotto il profilo tecnico e forse si potrebbe sviluppare in un altro momento, però si tratta di un'idea che si può declinare forse in quattro sintetici punti. Non si fa la bonifica e quindi già non facendo la bonifica si risparmiano quella che FES Sistemi Urbani ha stimato essere il costo della bonifica sui 7 scali, equivalente in questo momento pari a circa 160 milioni di euro. Si lasciano le aree alla loro lenta ma inesorabile rigenerazione, perché la natura degli scali, la natura nel senso degli elementi naturali degli scali, hanno una forte capacità di rinaturalizzazione e rigenerazione. È chiaro che non possono magari essere dall'anno prossimo delle aree per fare un parco pubblico per giocarci con i bambini o con gli animali, ma sicuramente l'elemento naturale degli arbusti, delle piante, del sottobosco hanno un grosso potere di fissare gli elementi inquinanti e restituirci tra un po' delle aree molto, molto valide. Si ridanno le aree alla città, le si ridanno nella misura in cui queste sono usufruibili e per gli usi compatibili con la tipologia di terreni, di conformazione, di accessi, di sicurezza. E le aree compromesse, quelle su cui non si può effettivamente andare a fare un uso sociale, si lasciano a uno sviluppo naturale. Cioè si rinuncia, per queste aree, a un qualsiasi sfruttamento, cioè si rinuncia a estrarre da queste aree l'ennesimo valore, l'ennesimo elemento di rendita. Ecco, questa è una cosa che dobbiamo iniziare a fare anche noi a Milano. Dobbiamo pretendere di nuovo la restituzione senza sviluppo, senza timore di essere chiamati reazionari, nimbi, gufi, pessimisti, eccetera, eccetera. Perché è chiaramente, diciamo, una direzione politica, ma anche ecologica, diciamo in qualche maniera, ambientale, cioè una visione, diciamo, di come ci si appropria del diritto alla città da un certo punto di vista, ma anche come si promuove il diritto alla città, ci si appropria di suolo comune, pubblico, ma anche si interviene senza inutile sviluppo, senza uno sviluppo che poi peraltro arricchisce soltanto la parte ristrettissima di popolazione. Questo è un passaggio culturale che bisogna importare in questa città. Qua è che fino ad ora è stato completamente strano. Questo